夜幕扑来，我们的眼下动，罗马大厅里也动，罗马大厅里也动啊，弗罗拉的路大呀嘛，弗罗拉大木也的呀，布拉波也是那呀。Roma da cini e domova Flora de lontana Roda da mulher de minha Pra boia china pia Roma da cini e domovaFlora de luta Cucumandaria Brasileira Praraiama Prisheguiama Proraiama Brasileira Praraiama Prisheguiama Proraiama Brasileira PraraiamaSimpio proma, ma ta bene ma prama, ieri robo papà. Cora ma ponsi di ma, per te escia brava. Cato non mossa Dio, che mossa doyou πόδια να μ' ακούν. Έτια πουνω το μακόνο μου. Κάποια thank you. Yeah, so this guy Crimson Cruiser has had this loop going basically all day, so that part is never gonna change.